L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati. Tosse, raffreddore, influenza. La stagione non risparmia e la corsa in farmacia nemmeno. Buon sabato da Anna Migliorati, farmacie che però sono molto cambiate dai tempi dei nostri nonni. Sono farmaci da banco, integratori e cosmetici ormai a salvare i bilanci. Ma se in farmacia andiamo sempre più per creme o per prevenire i malanni, in questa stagione nessuno è esente, o quasi. Il mercato italiano dei prodotti venduti in farmacia ha chiuso il 2018 con un fatturato di oltre 24 miliardi di euro e attendiamo i dati dell'anno appena concluso. Un trend in salita c'è però ormai da qualche anno proprio per i prodotti soprattutto di automedicazione. Aumento dovuto al fatto che i pazienti sono più informati e sentono meno l'esigenza di ricorrere al medico per le malattie lievi, vale a dire che per i piccoli malanni ce la caviamo da soli. Ma la vera novità, neanche a dirlo, anche qui arriva dal commercio online, che macina aumenti con percentuali a doppia cifra e da marginale sta emergendo sempre più. Anche lo sciroppo per la tosse, insomma, si compra via web, ma è un prodotto davvero come gli altri? Allora, cominciamo con una curiosità. Idealo, un sito web dedicato proprio alla comparazione dei prezzi, ha provato a capirci di più. L'indagine l'ha curata Fabio Plebani, benvenuto. Grazie, buongiorno. Non sempre lo stesso farmaco, parliamo ovviamente di farmaci da banco, hanno lo stesso prezzo. Voi avete un po' indagato questa dinamica. E abbiamo potuto identificare soprattutto due aree stagionali. Un'area legata all'inverno, che sono i prodotti per la cura del raffreddore, della tosse e dell'influenza, che sono da ottobre fino a gennaio, febbraio, e poi c'è un'altra ricerca molto intensa con l'arrivo della primavera, che sono i prodotti antistaminici o antiallergenici. Paradossalmente, come spesso capita nelle dinamiche economiche, se compro un antinfluenzale d'estate costerà meno e se compro un antiallergico in inverno costerà meno. Sì, esattamente così come appunto per i prodotti della moda o i prodotti elettronici, anche per i farmaci vi è il cosiddetto prezzo dinamico, quindi una variazione dei prezzi sulla base delle ricerche. No, ad esempio, il mese più economico in media per acquistare i prodotti è proprio giugno, dove tutti i prodotti in media costano l'8% in meno, ma ad esempio acquistare in estate gli antistaminici si può risparmiare fino al 32% e similmente anche gli antidolorifici sul 20%. Anche. Quello che ha cambiato un po' le dinamiche è anche l'arrivo di quella che per l'Italia soprattutto è una novità, cioè l'acquisto di farmaci e prodotti farmaceutici online. Quali dinamiche nuove ha introdotto? Il fatto di averli portati online, anche se in realtà poi sono le farmacie che vendono online sono farmacie che troviamo anche per la strada, sono gli stessi identici farmacisti, ha però un po' reso la cosa meno seria, se vogliamo. Ecco, ma non è un po' rischioso dire meno serio l'acquisto di un farmaco? In realtà è più accessibile. Soprattutto gli anziani che magari hanno difficoltà nel spostarsi, adesso possono farsi arrivare i farmaci a casa. Quello che noi consigliamo sempre è di controllare dove si stanno acquistando i farmaci. Le farmacie che vendono per vendere online devono avere un riconoscimento dal Ministero della Salute e vi è un sigillo che è una croce bianca a sfondo verde che i siti devono mostrare. Generalmente però è vero che l'utilizzo dell'online ha reso l'acquisto proprio più facile, si acquista con più disinvoltura un farmaco. Milioni di pezzi in due anni di attività, questo il numero delle confezioni di farmaci da banco vendute ad esempio da Pharmacon, la prima piattaforma italiana nata per favorire la vendita di questa categoria di medicinali online. L'e-commerce dei prodotti in farmacia in tutta Europa crescerà, si stima, entro il 2021, arrivando a un totale di 13 miliardi di euro. Piccole cose crescono con Marco Gambaro. Sì, in parte sarà il futuro del commercio di farmaci l'online, un po' come avviene in altri comparti. Per ora il commercio online dei farmaci riguarda solo i farmaci da banco, ma in fondo il nostro sistema delle prescrizioni è totalmente automatizzato e quindi non è difficile che sia possibile estenderlo anche ai farmaci da prescrizione, non oggi, ma eventualmente in un futuro. I farmaci sono un bene con una natura particolare, si chiamano cosiddetto bene fiducia. Bene fiducia vuol dire che i consumatori non possono verificare la qualità del prodotto neanche dopo l'acquisto. Ci sono altri beni, i beni esperienza ad esempio, dove per verificare la qualità io ho bisogno di provare il prodotto. Vale per i vestiti, vale per il caffè, vale per gli alimentari. Ci sono i beni ricerca, di cui io invece posso verificare le qualità prima dell'acquisto. Vale per i telefonini, per i computer e per i giradischi. Ma nei farmaci no. Anche dopo l'acquisto, anche dopo averli provati, non sono in grado di verificare la qualità e ho bisogno degli esperti. Per questo, anche nel commercio online, c'è molta attenzione, perché gli eventuali comportamenti malevoli o gli imbrogli o il fornire un prodotto al posto di un altro possono avere conseguenze gravi. Uno dei modi che si è trovato in Italia per garantire un certo livello di qualità è riservare il commercio elettronico dei farmaci alle farmacie che già operano sul territorio nazionale. Naturalmente questo è un modo per garantire la qualità, ma allo stesso tempo è un modo per proteggere le farmacie, che sono un settore abbastanza privilegiato, ed è un modo per limitare la concorrenza. Del resto, nel commercio dei farmaci da sempre c'è una particolare attenzione. Ad esempio, una delle cose che da sempre si fa in gran parte dei paesi del mondo è separare la diagnosi dalla fornitura. In linea di massima, i medici non possono vendere i farmaci. Naturalmente anche questa salvaguardia ha un costo, perché in molti casi sarebbe più efficiente che i medici potessero fornire i farmaci. È quello che succede, per esempio, in alcuni casi, in alcuni medici rurali inglesi, medici di campagna, dove sarebbe così costoso per i pazienti andare nella farmacia che si preferisce per un certo gruppo di farmaci centrali e di maggiore diffusione dare la possibilità ai medici di fornirla direttamente. In questo caso la riduzione di costo associata alla fornitura congiunta è superiore al rischio che ci siano comportamenti opportunistici. Insomma, il commercio di farmaci sta cambiando, con l'online sta cambiando molto, ma la trasformazione è appena iniziata. Ma è davvero nell'online il futuro della farmacia e per la piccola economia che gira attorno? Siamo sicuri? Antonello Mirone, presidente Federpharma Servizi. Grazie a voi dell'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Attendiamo i dati che chiudono l'anno appena concluso, il 2019, vedremo alla fine come sarà andata. Però nel 2018 l'e-commerce delle farmacie ha venduto per un totale di 154 milioni di euro circa. Soprattutto ha fatto un 60% in più rispetto al 2017, quindi è soprattutto la crescita che colpisce. Sì, assolutamente. Beh, è anche la comodità e la facilità induce molti utenti a rivolgersi all'online anche per il farmaco. Ed è una cosa contro la quale evidentemente nessuno si vuole opporre. L'importante è che però tutto venga fatto secondo le norme e quindi a tutela del cittadino. C'è anche da dire che ad esempio ci sono alcune fasce che paradossalmente poi sono quelle che invece magari le usano di meno, vale a dire quella dell'anziano, per il quale l'acquisto direttamente da casa, il recapito a casa, può essere un grosso bene. Nella realtà poi sono più invece le fasce giovani abituate appunto all'online ad utilizzarlo. Il problema è che, come diceva giustamente lei, invece sono soprattutto fasce giovani che tendono ad aggirare quel meccanismo della prescrizione medica per procurarsi dei farmaci di cui hanno teoricamente bisogno, non tenendo conto che se il paziente non ha bisogno di quel farmaco è giusto che non lo compri. Ecco, questa barriera in meno non rischia di far perdere il concetto che appunto il farmaco ha bisogno di controllo? Sì, esatto. Perché si possono acquistare soltanto determinati prodotti? Perché sono quelli più maneggevoli, più facili da usare, più tollerati dal paziente. Tutti gli altri hanno bisogno di una prescrizione, quindi hanno bisogno di un controllo medico. Questa è la stagione dei raffreddori e delle influenze, quindi anche il classico farmaco da banco. È vero che sull'online arriva a costare anche la metà? È parzialmente vero. Si tratta di offerte che noi possiamo trovare anche nelle farmacie. Ormai il libero mercato su questi prodotti determina concorrenza tra i diversi punti vendita che sono riscontrabili nelle varie offerte che ciascuna farmacia fa. Le farmacie di 30, 40 anni fa hanno già subito una grossa rivoluzione, quando un po' complici anche i farmaci generici, ma non solo, hanno cambiato volto, possiamo dirlo, sono diventate solo dal luogo dove si acquistava farmaci anche a centri dove si trovano ad esempio prodotti per il benessere. L'arrivo, la rivoluzione in qualche modo dell'economia online per i farmaci potrebbe essere l'anticamera di una nuova rivoluzione per la farmacia in sé? C'è bisogno appunto di un nuovo ruolo per il farmacista, che deve essere sì quello di dispensatore appunto di prodotti a banco, di prodotti per il benessere quotidiano, ma deve diventare sempre di più anche il consulente del paziente nelle terapie per le quali c'è bisogno della presenza fisica del paziente in farmacia. Ecco, unendo queste due cose forse individuiamo un modello di farmacia futura che probabilmente vedremo sul mercato di qui a pochi anni. Grazie a Peter Bescapè in regia. Per saperne di più, www.radio24.it, l'economia delle piccole cose. Buona salute a tutti da Anna Migliorati.